Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie della cortese attenzione, grazie Cristiano Valli della regia e grazie a Raffaele Köhler per la tromba in diretta. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Ce n'erano, ha utilizzato invece la campagna personale, cosa che è stata fatta in modo molto meno evidente invece, soprattutto direi da Rifondazione Comunista, che non l'ha proprio usato, ma sicuramente dall'altro schieramento. Ti ringrazio molto. Un'ultima cosa importantissima, l'assoluta incapacità invece all'interno dei seggi di elaborare i dati. I presidenti, secondo me questa è una denuncia che va fatta, i presidenti e gli scrutatori non erano assolutamente preparati a elaborare questo nuovo modo di votare. Questo è un altro microfono aperto, ti ringrazio tantissimo. Grazie, scusate, Stella. Naturalmente, perché quando ci sono io è così, in ritardo con la pubblicità, le notizie in breve, ci sentiamo subito dopo. Ciao.